rivincita delle bionde. Oltre la cultura dello stereotipo. Buongiorno a tutti e a tutte i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ben ritrovati per una nuova puntata della Rivincita delle Bionde. Ai nostri microfoni, come sempre, le bionde Erika e Carlotta. Buongiornissimo, ma Carlotta, come parli? Cos'è? Che vuol dire biun? Palermitano, non è biun, è biunne, che significa bionde. Se non sbaglio, sono a tema oggi, posso permettermi finalmente di parlare col mio dialetto, nessuno mi rimproverà. Allora, sì, questa volta effettivamente ti è concesso. Basta che poi ci fai una traduzione simultanea, perché sennò non capiamo assolutamente niente. Allora, vi spiego adesso che cosa c'entra il palermitano con questa nostra puntata. Oggi parleremo delle nostre terre natie, quindi abbiamo rivelato che la terra di origine di Carlotta è Palermo e la è mia... quella di Erika è la famosissima San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Ah, scusa, con quel famosissimo che cosa vorresti dire? Spiegati. Scherzo. Guarda che è uno dei porti pescherecci più importanti d'Italia e meta balneare di tutto il nord, sì. E bolognesi sicuramente lo conosceranno benissimo. Sì, vabbè, ma tanto il mare che c'è in Sicilia non lo trovi da nessuna parte, che ne dica William Piana per Marina Romea, con tutto il rispetto. Comunque ti ricordo anche che Palermo quest'anno è la capitale della cultura. Esatto, ma infatti smettiamola con queste faide regionali, con questi campanilismi, perché non è quello che ci interessa. Oggi quello di cui vogliamo parlare sono due storie che hanno a che fare quindi con le nostre origini, con le nostre terre di origine. La prima è la storia di un cantautore rap di Ascoli Piceno, che ha vissuto anche a San Benedetto del Tronto, che è Clavergold. E invece per quanto riguarda Palermo, per quanto riguarda appunto la mia terra, non parleremo di una persona in particolare, ma in generale del riscatto proprio della città avvenuto in questi ultimi anni tramite appunto l'arte e la cultura. E nello specifico vi faremo conoscere un'associazione palermitana che si chiama Jink Go. Adesso però mi sa che è il caso di fare una brevissima pausa musicale. A tra poco. Uno con l'amici mi accassotta con pallone, avevo uno ca mi fa squidare che nascivo molti fame con me pace rincia, me mace che già vacchio fuori no. A chi la scuola mi si dia faccio prima resta a casa, sei nata bucceria cusci, picciretto non ne vai cocco te unci, cocco sai cocco voglia stare a cura, se non mi passi guai Palermo si picchia tutto, un quartiere all'otto un picciretto come a mia morio, troppo brutto venisse ora, ma ghiaccia solo sangue e se arresto canaggio minuto arresto solo un fango. Troppi sogni nel cassetto, voglio solo un po' d'affetto. Il mio cuore vuole forza perché lotta. Troppo stanco di non avere un vero tetto addosso. Intanto aspetto, aspiato. Sette cannuole, brancaccio, cep, ballarò, macione, borgo nuovo, zen. Calata femmine, menso morreale, Cuba, retour, Tommaso Natale. Mi so sa menzione, non mangio una nonna e scino. Mi metto accanto nera, ca un po' chi fumo vino. Ancora passi qua, non volere che io usaccio. Aspetto stasera che una fottuta ma pazzo. Mi vuoto una luce abbagliante. E caduta da seconde, caccia volante. Mi caro ma la spina, e visto pure i spinti. I stessi che si accattano e poi mandano i sbirri. E ora sogno che fuori, la forza la natura. Io mi scanti nudo e tu dai sarà cura. Fascisto fango e a piate scanno, conferenze la questura, ne bevo sangue, un fascito per nome, e un ma sbellettiate, se vi incoccio un'estate, va ammazza paissonate, ma che bolito, un metaliato, mi inquietate, dentro se, ma voate scapazzate, Vuccerea, Santa Rosaria, Cavo, Malaspina, Libertà, Palagonia, Passeggiano, Cesar, Renea, Daumoico, Vergine Maria, Mariella. 1000 euro l'anno, a me casa ci fu danna, quando a quando non arrivesce una vita, ci volo già vaglio. E come faccio? Se ora recussa, a bussa paga mio maronano, già vagliare gusta. E se non trovo il modo posso girare a vuoto, Palermo te la vivi o ti vive lei a suo modo. Quattro materie, il sudore della fronte, una figlia e sono un uomo che nella vita ha un suo scopo. Mia madre è nonna, io 20 anni e pure i coin, voglio fare l'avvocato, dare c'è a me figlia pure chi dopo un senzona, nescere lo capo, nescere in Palermo e poi quei nudo voce toina. Lavo le scale, ho una laurea che non soddisfa la mia voglia di scappare. Il mio quartiere mi ha già murato vivo, proprio come la mia vita che ha già deciso il mio destino. Bocca e fai, come una gia paitana, per la grazia, noce guaragna, falla vicino, ferra cavallo, gorillas, acqua santa, abbiamo un palco. Questa vita che si squaglia così, io veremo mano con nanno che non niente così, come se come onna rinunciamo ne sei nata vacante, canne pesano ne spalle, tu che ci tale, che ci guardi, i miei 30 anni sono come 50 anni che ti sbagli a schiena che ne canti, la desio da avere i figli più grandi, canne crescono qua senza risentare la cent'anni, la sta città che mi fotte io per scontare le mie sbagli, ancora pago scotto perché già venuto cocco a dei fanghi, però a chi ha rinunciato che i granfi come puoi piccare sannaggi e poi ti sputa non ta faccia e fanne vere e so cosa fare perché io già faccio chiuma che marrozzo non so un capoletto signorozzo suo proprietto magari rincia a somare ti insegnasse a nadare. E sta canzone è dedicata a quella gente che parra, parra e non ce ne fotte niente, a quei politici capaci di caetone che ti promettono già che fortune, ma quando acchianano e vanno a governare riescono a pensare solo sulla mangiare, e a così a città se ne va un funne e me pare, a stessa così quando muore turno, ma qualche cosa la va a fare, mu spiegasse possia come si fa a non emigrare. Forza Palermo e Santa Rosalia che su miracolo la santuzza sola mia mu può fare, na libertare dalla nuova pestilenza, l'ignoranza, la mafia, prepotenza, chi sarà terra, agricoltura e civiltà, la maccanciana, ma campare, ma morire ca. San Lorenzo, Cipriasse, colonna trutta, Sperone, Oretto, Arioacca, Polideama, Paissomiale, Calza, Mondello, Monte Pedereno, Vella Tasca. E rieccoci sui 103.1 per la rivincita delle bionde con Erika Verdecchia e Carlotta Calarese. Vi ricordiamo che potete scriverci in diretta tramite SMS o WhatsApp scrivendo al numero 333-1809-494. Ma allora Carlotta, utaghiamo su pallone! Smettila di parlare in palermitano che non sei proprio in grado e hai, come fanno tutti d'altronde, utilizzato un po' l'intonazione mafiosa. Comunque volevo semplicemente dire che questa canzone appunto dei Combo Mastas, che è una band palermitana, è una canzone che parla proprio della città, quindi di tutte le sue difficoltà, ma in realtà alla fine del brano loro lanciano un messaggio, no? Un messaggio di lotta per tutti quei giovani palermitani affinché appunto rimangano a Palermo per poter cambiare in positivo la città. Comunque in realtà il siciliano è un bellissimo dialetto, ma come tutti d'altronde. No, ma infatti lo penso anch'io, anzi io sono convinta che la diversità è una risorsa, non è un problema, infatti proprio la bellezza dell'italiano e dell'Italia sta nei suoi dialetti e nelle sue varietà. Ma parliamo della puntata. Abbiamo appena ascoltato un brano rap dei Combo Mastas, che sono una band palermitana, e il rap sarà un po' il filo conduttore di tutta la puntata. E infatti il primo personaggio che vi presentiamo è proprio un rapper che si chiama Clavergold. Clavergold è il nome d'arte di Dicol Orsini ed è appunto un cantautore rap che si sta affermando sempre di più sulla scena nazionale ed è sempre più apprezzato, in particolare per i suoi testi e la sua lirica. E Clavergold nasce in un quartiere popolare di Ascoli Piceno, classe 1986, e sin da ragazzino si appassiona alla cultura hip hop, quindi inizia con il writing e poi con l'emceeing, il freestyle, e poi inizia a comporre canzoni. Inoltre dal 2007, se non sbaglio, fino al 2013 ha vissuto a Bologna, dividendosi tra l'Accademia di Belle Arti, le battle di freestyle, i palchi dei centri sociali e la sua etichetta Glory Hall Record. Prima loro erano una crew e adesso invece hanno deciso di autoprodursi ed è diventata appunto un'etichetta indipendente. E tra l'altro abbiamo deciso di portarlo in puntata perché Clavergold ha avuto un passato abbastanza difficile, ma tramite appunto la musica è riuscito a riscattarsi e ha avuto successo proprio con l'album Mister Nessuno del 2014, ovviamente per l'etichetta Glory Hall Records. Esatto, ma io e Carlotta abbiamo raggiunto Claver, perciò per sapere qualcosa di più sulla sua biografia ascoltiamo direttamente le sue parole. Cosa significa il tuo nome Clavergold? Perché hai scelto questo nome? Ho scelto questo nome perché da ragazzo ho iniziato ad avvicinarmi alla cultura pop come writer, poi solamente in seguito come MC. avevo scelto questo nome che all'inizio era clever, come abile in inglese, solo che poi dipingendo volevo mettere un'altra lettera all'interno del nome, e quindi poi da clever è diventato Claver. Poi in seguito, rappando, iniziando un po' a rappare per gioco con gli amici, ho iniziato a mettere gold per fare più giochi di parole, quando si fa freestyle, le robe in giro. Quindi io sono nato un po' così, come writer e freestyler. Solo in seguito ho iniziato a scrivere testi e a dedicarmi più alla musica, diciamo. Quando hai iniziato a fare musica, com'è nata questa tua passione? Cioè, qual è stato, se c'è stato un incentivo? Ho iniziato intorno al 2001-2002, credo, a fare le prime robe di rap, i primi testi, i primi freestyle, facendo parte già di della cultura hip hop, come veniva intesa prima, ovvero come discipline che fanno parte di una stessa cultura. C'era il writing, l'emceeing, il DJ, il breaking. Prima era intesa in modo un po' diverso questa storia del rap, quindi se tu facevi graffiti ascoltavi quasi automaticamente il rap, oppure se tu ballavi breakdance ascoltavi il rap. Quindi immergendomi in questa cultura, come magari molte altre persone, una volta che inizi a praticare un'arte provi anche a fare le altre che ci girano intorno. Quindi è andato un po' così per passione della cultura hip hop. Poi da Ascoli Piceno e San Benedetto ti sei trasferito alcuni anni a Bologna, e quali difficoltà e ostacoli hai incontrato durante questo periodo? Bologna è stato un po' un punto di svolta nel mio percorso musicale, perché venendo da una cittadina piccola dove la mentalità è un po' chiusa, non c'era gente che facesse rap oppure che facesse parte della cultura hip hop, era un po' difficile riuscire a confrontarsi con le persone, ad evolversi in un certo modo. Quindi poi arrivando a Bologna e trovare miliardi di persone che comunque fanno serate rap, gente che rappava al Contavalli, che era all'incrocio con Via Ventana, adesso non c'è più, peccato, però ecco, lì era un punto di ritrovo, ci si incontrava e si rappava, ci si scambiavano opinioni, si incontravano persone della scena, quindi è stato, come ho detto prima, un punto di svolta per la mia carriera musicale. Ora respiro e sento il mare, quella voglia di ricominciare, di chi si è sentito dire non sai fare provinciale, da quando mi sembrava un gioco andare a registrare, come quando non mi pagavate e venivo a suonare. Pare che non sia facile qui farsi un nome, come tagliare il cordone, scendere a Boro stazione, i vecchi amici sta scalando ancora il metadone, mentre sento mia sorella che mi chiama dal balcone. Ogni canzone è parte del riassunto, arte disappunto, storia triste e disperata da cui prendo spunto, e sono qui che mi domando quando arriva il punto, non mi riesco più a godere quei traguardi che ho raggiunto. Ora combatto con la fretta, sbrano la mia fetta, plano sopra una città che amo ma che sento stretta, parte la base mentre accendo un'altra sigaretta, chissà se a casa c'è qualcuno che ancora mi aspetta, dal parco sotto casa fino ad un parco in centro, vorrei tornare indietro, mamma non mi diverto. Io non dimentico il posto in cui sono nato, ma ciò che ho vissuto mi ha cambiato. Io credo nei sacrifici, non credo al fato, e corro stanco, morto e senza fiato, mentre mi stringono i muri di questa mia città. Qui la libertà non esiste più, poi torno indietro per cercare la mia verità, dentro un déjà vu senza fiato. La mia vita è complicata, la scrittura è semplice, ogni rima è stata fatta, frate, sono un reduce da una vita che ci provo, non si sa mai. A Milano senti l'odio se ce la fai, la provincia che mi demotiva, faccio un giro anche se poi non mi va, anche se non c'è vita, anche se in cima ci arrivano i più forti. Potevamo essere noi ma tu non mi ascolti, ho consumato notti inseguendo un'idea, cantavo in certi posti, la gente rideva, se non ci credi non succede, ho troppa fede, se guardi fuori non c'è nulla, tutti in ferie, se non sei pronto la città ti taglia a fette, qui basta un soffio e cade giù anche la parete, scommettere tutto, dimmi chi se la sente, non basta un disco a farti vivere. vivere per sempre. Chiudevo gli occhi e immaginavo spazi, chissà dove mi porti, qui sono solo palazzi. Io non dimentico il posto in cui sono nato, ma ciò che ho vissuto mi ha cambiato. Io credo nei sacrifici, non credo al fato, e corro stanco, morto e senza fiato, mentre mi stringo nei muri di questa mia città. Qui la libertà non esiste più, poi torno indietro per cercare la mia verità, dentro un déjà vu senza fiato. Io che volevo solamente andare via di qua, cambiare identità per non tornare più. Chiudo le tende per restare nell'oscurità, poi scrivo le mie storie a lume di bajur, pezzi su pezzi del mio passato, ciò che credevo dimenticato. Ritorno indietro per cercare quella verità, dentro un déjà vu senza fiato. Ed eccoci tornati sulle nostre bellissime frequenze. Ricordo che potete scriverci via SMS o anche WhatsApp al numero 333-180-9494. Abbiamo appena sentito il brano Déjà Vu senza fiato di appunto Claver Gold insieme a Fabri Fibra. E lui è uno di quei artisti, Claver, di quelle persone che sono riuscite, passatemi il termine, a sopravvivere appunto alle difficoltà della vita. Quindi a riscattarsi tramite la musica. Infatti spesso la musica ha una funzione, secondo me, terapeutica, perché la maggior parte di noi, anche chi fruisce la musica senza produrla, cerca di immedesimarsi con i testi e le storie degli autori, ma riesce anche e soprattutto a farle proprie, provando così sentimenti ed emozioni che fanno appunto da cornice, da sfondo, da base per superare appunto, per affrontare la vita di tutti i giorni. Assolutamente, ma infatti ti dirò di più, la musica di Claver Gold è molto apprezzata anche per tutte le cose che hai appena detto, e infatti nei suoi testi lui racconta la sua vita, episodi proprio suoi personali, si mette a nudo e quindi è molto introspettivo come artista. Ma quando inizia la sua rivincita? Inizia con il primo album ufficiale pubblicato con l'etichetta Glory All Records, che è Mister Nessuno del 2014, che viene accolto molto positivamente dalla critica e che quindi spiana la strada al successivo album del 2015, quindi con un anno dopo proprio, che si intitola Melograno, anche questo album molto apprezzato soprattutto per i suoi testi introspettivi. E perciò inizia a fare delle collaborazioni con altri artisti della scena rap nazionale, come ad esempio Murubutu, Fuoco negli occhi e Fabri Fibra, che abbiamo appena citato perché appunto ha cantato la canzone che avete appena ascoltato. Ma per sapere che cosa ha significato la musica per la vita di Claver, ascoltiamo le sue parole. Adesso è uscito il nuovo album Requiem, ce ne potresti parlare un po', se hai appunto anche fatto delle collaborazioni con altri artisti? Requiem è il mio terzo disco ufficiale, cioè di quelli che sono usciti con l'etichetta Glory Hall, e volevo raccontare un po' di avvenimenti del passato che mi erano rimasti sul groppone, che non riuscivo a tirare fuori, ad esorcizzare, quindi poi scrivendo riesco a buttare fuori tutte quelle problematiche che magari avevo fatto finta di nascondere, e invece mi tornavano in mente spesso e ci pensavo. Quindi è un po' un requiem, inteso come una colonna sonora dei ricordi del passato. All'interno ci sono diverse collaborazioni, alcuni di loro sono molti amici, altri erano artisti che stimavo, che non avevo mai conosciuto, però hanno collaborato volentieri. All'interno c'è un pezzo con Fabri Fibra, un pezzo con Gemon, un altro con Rancore, uno con Fantini, uno con Davide Sciorti, uno con Step Kill, uno con TMHH, che sono due ragazzi che fanno parte della mia etichetta. E a proposito della tua etichetta, parlaci della storia di questa etichetta, perché è nata in un modo indipendente. Sì, è un'etichetta indipendente che è nata per necessità più che altro, perché io ero ancora negli ultimi anni che ero a Bologna, e i ragazzi di San Benedetto avevano in mente questa idea, quindi ci siamo un po' riuniti per necessità, perché effettivamente non c'era in questa zona marchigiana, non c'era una vera e propria etichetta che ti potesse produrre un disco o anche solo stampartelo, farti registrare, e quindi è nata un po' così, come una roba molto basic. Non c'era una distribuzione a livello nazionale, era che si faceva il disco, poi se lo volevi o te lo spedivamo o te lo prendevi alle serate. E ancora, essendo un'etichetta indipendente, più o meno è così, non distribuiamo i nostri prodotti a centri commerciali, store vari di musica. Dal niente, piano piano, facendo sempre nuovi dischi, accogliendo nuovi artisti, siamo qui, ecco. Ti faccio una domanda un po' più personale: cosa rappresenta per te la musica, quindi? La musica è stata sicuramente un'ancora di salvataggio nella vita, ma soprattutto la musica rap per me, ovviamente, perché molte volte ti tira fuori da delle paranoie, da delle angosce, ti fa sentire meno solo, ecco, ti fa sentire parte di un insieme dove non ti senti più solo e capisci che anche altri andano male come te, hanno i tuoi stessi problemi e magari stanno riuscendo a venirne fuori o ne sono già usciti. Quindi per me, sia umanamente che lavorativamente, è stata una roba magnifica, perché adesso, cioè, ho trasformato la passione in lavoro, quindi sono felicissimo di questo e posso soltanto ringraziare la musica per tutto quello che mi ha dato. Mentre piango sale, oggi sole, piove uguale. Io ci immaginavo stessi in riva al mare, invece siamo in casa, ci sei a litigare. Dove sono finite tutte le cicale, dalla pasta al pesto, ostriche e caviale. Ora che la vita so che può cambiare, per il nuovo cellulare fermi una cambiale. Scusa padre se non ti ho chiamato, non credevo nel bisogno di essere salvato. Poi ringrazio mamma per averti amato, nello stesso letto ma dall'altro lato. Metto al centro questo rompicapo, vuoi vedere dentro quanto è complicato. Mi ha venduto un sogno ma era già tagliato, quindi non è uscito nulla quando l'ho abbassato. E mi son basato solo su di me, nel sentore dolce di un Chapeau Gautier, che si veste di peccati proprio come te, che trasforma la sua camera in un atelier. Notte di vino, stammi vicino, noi che per fare la pace facciamo casino e svegliamo i vicini. Oh, la mia testa gira dolcemente, mi fa notare, sprofondare su di te. Poi il sole asciuga tutto e non rimane niente, solo l'odore delle sigarette spente. Sei una promessa che si schianta sulle mie braccia, mi ghiaccia e mi scalda. Sei una finestra che mi sbatte in faccia, il vento che mi soffia in bocca e poi mi spazza. Ah, ah. Sono detto più volte ora smetto, arrotondavo solo per difetto, mentre vedevo svuotarti il pacchetto, tu rimanevi da sola nel letto, il corridoio è una sala d'aspetto, io ti attendevo con le mani al petto, paragonavo l'amore al rispetto, mi immaginavo volare dal tetto, decollavo dentro un'opinione, poi planavo stanco in ali di cartone, questo cielo grigio non mi dà ragione, da terra al buio sotto il tuo portone, tu sei un'infezione che non va più via, una nota suonata nella mia sinfonia, una bocca bagnata nella mia malattia, forse c'è un confuso tipo allegoria. Taglio il cordone ombelicale del nostro amore domenicale, come sedotto da un rito tribale, danzo da sole, mi fondo col male. Notte di vino, stammi vicino, noi che per fare la pace facciamo casino e svegliamo il vicino. Oh, la mia testa gira dolcemente, mi fa notare, sprofondare. E E rieccoci sulla Rivincita delle Bionde, Carlotta Calarese e Erika Verdecchia. Abbiamo appena ascoltato la canzone Notti di Vino, estratta dall'ultimo album uscito poco fa, gennaio 2018, Requiem di Clavergold. Tra l'altro, io non lo sapevo, ma Davide Sciorti è palermitano. Esatto, quindi abbiamo fatto una combo proprio perfetta. E quindi Claver, dato che nel appunto gennaio 2018, quindi pochissimo tempo fa, è uscito il suo ultimo album Requiem, sta facendo un tour, e una tappa del tour non poteva non essere Bologna e la sua amata Bologna. Tra l'altro Erika c'è andata. Esatto, il 20 gennaio scorso ha fatto questo concerto al TPO bellissimo, dove sono saliti sul palco tutti i suoi collaboratori, tutti gli altri artisti. E niente, noi ringraziamo tantissimo Claver per la sua testimonianza. E adesso invece imbocchiamo la Salerno Reggio Calabria, attraversiamo lo stretto e finalmente possiamo scorgere un'incredibile isola, contraddittoria per certi aspetti, ma all'insegna della cultura, dell'arte e della storia. In particolare vi presentiamo oggi un'associazione operativa già da qualche anno, ovvero Jink Go, nata dall'idea di tre ragazze, di tre donne, che hanno voluto appunto dare un contributo per l'arricchimento e l'evoluzione artistica, culturale e sociale di Palermo. È un'associazione che ha lo scopo di rendere accessibile la città in modo pratico, comodo, promuovendo tra l'altro tutti gli eventi culturali e artistici che purtroppo, a causa della disorganizzazione della mobilità palermitana, spesso sono difficili da raggiungere. Quindi gli associati, i soci, possono soffrire appunto delle bellezze della vita artistica della città in modo pratico e anche ecosostenibile. Abbiamo raggiunto Daniela Molinari, che è la presidentessa appunto di Jink Go, quindi ascoltiamo le sue parole. Come è nata l'associazione e qual è l'obiettivo e la filosofia? Allora, l'associazione nasce nell'ottobre 2015 dall'idea di tre ragazze, perché l'intento era quello di offrire un servizio per i nostri soci che potesse migliorare la fruizione di tutti gli eventi che Palermo offre, perché in realtà Palermo è viva, vive di arte e cultura, solo che molti vengono scoraggiati dalla mobilità e dalla vivibilità infernale di Palermo, e quindi molti eventi venivano sottovalutati o neanche considerati, e quindi principalmente nasce per questo motivo, per rendere più fruibili gli eventi culturali. La filosofia ovviamente è inerente a questo, cioè far rivivere tutte le zone che non erano, magari fino a qualche tempo fa, non erano frequentate come adesso, e noi diamo un piccolo contributo, ovviamente piccolissimo, ma cominciamo a vedere anche un grosso cambiamento, ecco. E avete avuto delle difficoltà durante la creazione del progetto? Assolutamente sì, la difficoltà è stata educare, per così dire, i nostri soci a questa nuova formula. Cioè, noi siamo ovviamente un'associazione e ci rivolgiamo solo ai nostri soci, quindi fare capire che non eravamo un'azienda, ma eravamo un'associazione che insieme voleva arrivare allo stesso obiettivo, questo è stato difficile, sì, però insomma non impossibile. Ed eccoci ritornati sui 103.1 di Radio Città Fuceco per la Rivincita delle Bionde. Sì, Palermo, come abbiamo già sentito anche da Daniela, è una città difficile che ha avuto e ha ancora tantissime difficoltà, però negli ultimi anni si è diffuso sempre di più un programma di riqualificazione del territorio, e non solo da parte del comune, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, l'aspetto più bello, dai giovani cittadini che amano la propria terra e desiderano lottare per appunto rivalutarla. Infatti in questi anni sono nate tantissime associazioni a sfondo artistico, culturale e anche sociale, e per esempio l'associazione Rounders Palermo, sei turista della tua città. Questo gruppo di ragazzi, appunto, tramite il patrimonio culturale stanno cercando di cambiare positivamente Palermo. Esatto, ma ritorniamo a Jink Go, questa associazione, e ascoltiamo la seconda parte di intervista a Daniela Molinari. Parlando invece della città, no? Di Palermo, sì. Avete notato dei cambiamenti o comunque un'evoluzione a livello proprio culturale e artistico rispetto agli anni passati? Ma io direi di sì, io direi che c'è più apertura nei confronti di tutti gli eventi. Se prima magari erano limitati solo a certe tipologie di arte, c'è un'attenzione più particolare a tutte le forme di arte, sicuramente sì. E poi adesso Palermo è capitale della cultura e quindi dobbiamo fare sicuramente questo cambiamento. Invece come funziona proprio il servizio? Allora, il servizio funziona associandosi una tessera di 25 euro l'anno, che vale ovviamente dalla data di iscrizione per un anno, diventi nostro socio e dopodiché prenoti il tuo passaggio entro 24 ore prima dell'evento prescelto, della data prescelta. Molte persone per esempio ci danno già il calendario per esempio di un abbonamento teatrale, quindi noi già sappiamo a priori le date stabilite. E poi ci occupiamo di smistare i vari passaggi ai nostri volontari, anche noi stessi ovviamente facciamo questo servizio. Fate anche altre attività o soltanto questa? Sì, no, facciamo altre attività, abbiamo appena concluso un evento a Palermo allo Spasimo che si chiama Nuovo Cinema Palermus, che è stato organizzato insieme a Quarto Tempo, un'associazione di Palermo, quindi ci occupiamo anche di creare un po' di arte nel nostro piccolo. Abbiamo una scenografa, Gisella Leone, che è la nostra cofondatrice. Ci occupiamo di piccoli corsi di batik e piccoli eventi con esposizioni d'arte. Grazie. Good one, DJ West. Torna in ballo la mia malattia, bella mia, il vento ci ha spazzato via. Noi che scappavamo lungo strade di periferia. Chiama la canzone oppure storia, chiama la poesia. Perdo fiato a 100 bpm di tachicardia. Attacchi di panico, malinconia. Tiro giù le tapparelle, metto al minimo la suoneria. Danzo sopra un ago, crisi d'agorafobia. Per guardarmi veramente dentro servirebbe un'autopsia. Mamma, cambia la trama. Ricoprimi di nuovo sotto frasi di lana. Il freddo entrava in casa come sbirro in borghese. Le mie mani erano tese verso la tua sottana. Alle 7 del mattino sbocco il vino delle 20. Accuso pugnalate, puttanate, soffermate, serenate, serenate. Io non mi sentivo più a mio agio ed arrivò l'estate. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come state. Ora che la vita ci ha tradito, dimmi come state. Ci ha tradito, dimmi come posso fare a dare meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Siamo arrivati sopra il cielo, il paradiso dov'è? Il suo sorriso non c'è, il paradiso dov'è? E dimmi come posso fare a dare meglio di me. Sono rimasto solo in casa a domandarmi perché. Sono tornato nell'inferno per sapere com'è la vita senza di te, lo vuoi sapere com'è? A volte penso dovrei dare solo il peggio di me. Ma qui, peggio di così, non c'è più un cazzo di niente. Ci siamo già mandati a fare in culo ognuno per sé. In verità ero già sboccato. E rieccoci, abbiamo appena ascoltato un brano estratto da Requiem, l'ultimo album di Clavergold. Il brano si chiama Il meglio di me ed è cantato insieme a Rancore, un rapper romano. E insomma, puntatona on the road, San Benedetto, Ascoli Piceno. Abbiamo fatto tutta Italia in mezz'ora. Palermo, esattamente, tutta Italia in mezz'ora. E abbiamo parlato quindi del riscatto di Clavergold grazie alla musica e alla cultura rap. Il riscatto e la rivincita di una città come Palermo, che ovviamente deve ancora continuare a essere riqualificata e crescere, certo, sempre di più. E noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre alle 13, sempre sui 103.1, ma per restare aggiornati potete seguire le nostre pagine social, quindi Facebook ed Instagram, che ovviamente si chiamano La Rivincita delle Bionde, ma anche la pagina di Radio Città Fugico e il sito web. E allora non ci resta che augurarvi un buon ascolto sui 103.1 e ci vediamo la settimana prossima. Buona giornata a tutti, picciotti!